All'inizio di aprile il governo Conte ha cercato di dare un aiuto alle imprese italiane messe in difficoltà dall'esaurimento degli incassi, varando il cosiddetto decreto liquidità. Il decreto prevede che le imprese che hanno sede in Italia possono fare richiesta di un finanziamento bancario, quindi non è un finanziamento pubblico ma è un finanziamento privato, garantito però dalla SACE, cioè in buona sostanza con la garanzia dello Stato, fino al 25% del fatturato che hanno realizzato nel 2019. Che cosa succede? Succede che nei giorni scorsi Intesa San Paolo ha reso noto di avere trovato un accordo con FCA Italia per erogare a FCA Italia una linea di credito di 6,3 miliardi con la garanzia della SACE sulla base di quello che è previsto dal decreto liquidità. Questa linea di credito non sarà utilizzata da FCA Italia, ma Intesa San Paolo aprirà tanti conti correnti quanti sono i creditori di FCA Italia e verserà direttamente su questi conti correnti intestati a ciascuno dei creditori di FCA Italia la somma che FCA Italia indicherà. Che cosa significa in sostanza? Che FCA Italia, cioè Fiat Chrysler Automobiles Italia, utilizza fondi privati ma con la garanzia dello Stato per 6,3 miliardi per saldare i suoi debiti ai suoi fornitori, che sono sia coloro che costruiscono pezzi, sia la rete delle concessionarie, cioè la rete di vendita, che ha anticipato a FCA Italia delle risorse finanziarie, ad esempio comprando vetture che sono rimaste però invendute a causa della crisi. Il punto è che però in cassa FCA ha un bel po' di soldi, si parla di più di 18 miliardi, ed è qui anche la possibilità di staccare dividendi per i propri azionisti. Questo, tu sottolinei nel tuo pezzo, è possibile proprio per il decreto liquidità. Sì. Allora, questo tipo di decreto, con forme diverse, però più o meno con la stessa ragione, è stato varato anche in altri paesi come la Francia e la Germania. Anche in Italia si prevede che le imprese che possono chiedere l'accesso alle linee bancarie garantite dallo Stato devono avere sede in Italia. Il problema è che nel decreto non ci sono alcune condizioni. La prima condizione è che il divieto di versare dividendi o effettuare riacquisti di azioni proprie non valga solo per le imprese italiane, ma anche che per le capogruppo di imprese italiane che richiedono i fondi garantiti dallo Stato, che però abbiano sede all'estero. Quindi FCA Group, che è la controllante di FCA Italia, che ha la sede legale in Olanda ma la sede fiscale nel Regno Unito, può fare quello che vuole. La seconda questione che manca nel decreto italiano è una norma che ti dica: se tu hai già liquidità sufficiente nella tua impresa o nel tuo gruppo, non chiedere la garanzia pubblica su una liquidità ulteriore che ti garantiscono le banche, perché la garanzia pubblica è limitata e altrimenti non ce n'è per tutti. Infatti al 31 marzo sempre FCA Group, cioè questa controllante anglo-olandese di FCA Italia, ha in cassa 12 miliardi e 3 di liquidità. In più c'ha altre linee di credito già disponibili per 6,2 miliardi circa, quindi in totale potrebbe far fronte a tutti i fabbisogni finanziari del gruppo con la liquidità o con le linee di credito già disponibili. Perché non lo fa? Non lo fa perché nei mesi scorsi FCA e la francese PSA, che è il gruppo che controlla Peugeot e Citroën, hanno deciso di fondersi. Nelle operazioni di fusione le due società riusciranno a distribuire agli azionisti, oltre al dividendo normale, anche un extra dividendo straordinario che nel caso del gruppo FCA è di 5,5 miliardi di euro. Quindi se fosse stato inserito nel decreto un passaggio che avesse regolato il divieto di distribuire questi extra dividendi, che valesse non soltanto per FCA Italia ma anche per la sua controllante estera, il gruppo FCA non avrebbe potuto distribuire l'extra dividendo. Tutto questo però non è stato fatto, quindi che cosa bisogna dire in sostanza? Che FCA Italia si sta muovendo nell'ambito della legge, perché non sta violando nessuna legge, quindi quello che sta facendo è assolutamente legittimo. Il problema è che il decreto è stato scritto apposta, a mio modo di vedere, per consentire alle imprese controllate da gruppi esteri di poter chiedere i fondi, mentre le loro controllanti all'estero fanno quello che vogliono con la cassa anche in eccesso che hanno già. Ti faccio una domanda che esula dal tuo articolo, che però riguarda la presa di posizione di Michele De Palma, che è della FIOM, in un'intervista sul Manifesto, e vedeva di buon occhio questa operazione, dicendo: così il governo potrà cogestire il futuro, insomma, dell'azienda. È chiaro che la filiera del settore dell'automobile in Italia è una filiera estremamente importante, non soltanto dal punto di vista industriale e dal punto di vista finanziario, ma anche dal punto di vista occupazionale, perché Fiat occupa direttamente in Italia ancora circa 30.000 dipendenti e nella filiera, secondo diverse fonti e secondo diversi modi di calcolo, si va da altri 85.000 addirittura ad altri 300.000, calcolati in maniera molto vasta, lavoratori. Quindi è una realtà importante per l'Italia. Detto questo, però, questo meccanismo di erogazione della liquidità privata garantita dallo Stato non prevede nessun tipo di controllo dello Stato né su FCA Italia, né su gruppo FCA, né sulla filiera. Cioè non ci sarà nessuna possibilità di ingerenza dello Stato nelle decisioni di FCA Italia e soprattutto nelle decisioni sul mantenimento degli stabilimenti o un'eventuale chiusura di parte di questi stabilimenti dopo la fusione con PSA. Questo cosa significa? Significa che i sindacalisti hanno sicuramente ragione nel dire che questa misura di iniezione di liquidità serve, nessuno nega che serve. La questione è che all'iniezione di questa liquidità si poteva mettere come controparte una serie di paletti chiedendo che fossero fissate in maniera esplicita e inderogabile delle garanzie per la presenza degli stabilimenti e per l'occupazione in Italia. Di tutto questo nel decreto non c'è traccia.